quando tu respiri in braccio a me, sembra che l'amor risplenda in te. Tu mi illudi nella voluta, bacio in sogno la felicità. Dimmi che il mio amore sei solo tu, anche se il tuo cuor non m'ama più. Basta che io mi illuda ancora accanto a te, sento la tua vita palpitare in me. No, non puoi mentir, tu sai perché. Sento la tua vita palpitare in me.